English Bit di Giulia Crivelli. Cool. Can classical music be cool? La musica classica può essere forte? Questo è il titolo di un bell'articolo apparso nella sezione Cultura dell'Economist di ieri. Il settimanale britannico parte dalla storia di una giovane musicista australiana, Anna Goldsworthy, pianista e direttrice d'orchestra di festival, che si interroga sull'appeal che la musica classica ha presso le nuove generazioni. Ho tradotto cool con forte, ma come forse si può immaginare, ci sono espressioni gergali italiane che ne rendono meglio il significato, come fico. In questo caso italiano e inglese differiscono profondamente, perché in inglese non si usa la tanto diffusa metafora sessuale che utilizziamo nella nostra lingua per indicare qualcosa che è appunto forte, attrattivo. Il significato letterale di cool è fresco. Si può dire ad esempio "The weather is cool today", oggi fa fresco, oppure "Jane wears cool clothing on a hot day", Jane indossa un abbigliamento leggero nelle giornate calde. Cool può voler dire anche calmo, tranquillo. "With cool movements, the hunter stalked his prey", con movimenti cauti il cacciatore ha stanato la sua preda. Si può usare anche per dire con gentilezza a qualcuno di calmarsi, "keep cool", "stai calmo, non preoccuparti", ma forse un po' stranamente, cool può avere anche un'accezione negativa. "She was decidedly cool about the proposal", accolse la proposta con una decisa freddezza, e qui forse l'uso è abbastanza simile a quello che possiamo fare in italiano, visto che abbiamo detto che cool vuol dire anche appunto fresco e quindi anche magari freddo. O ancora, possiamo dire per descrivere l'accoglienza riservata a un politico, "they gave the prime minister a cool reception", diedero al primo ministro un'accoglienza fredda. Ci sono poi termini collegati come cool-headed, che significa a mente fredda, letteralmente con una mente raffreddata, oppure dei phrasal verbs come cool down o cool off, che significa calmarsi o rilassarsi, ma ci tengo a sottolineare, non è un modo violento per dire a uno calmati, ma è un modo gentile, qualcuno con cui siamo in confidenza, che appunto sembra un po' sopra le righe, gli diciamo cool down o cool off. To keep your cool, oppure to lose your cool, significa invece mantenere la calma o perderla. Tornando all'espressione gergale, cara ai giovani ma non solo, si può dire "we could go to the movies and then have dinner together", potremmo andare al cinema e poi cenare insieme. Risposta: cool, cioè forte, bello, buona idea.